riesci a dormire, o per il caldo o per i tuoi pensieri incombenti. Puoi alzarti dal letto e uscire sul terrazzo di casa. Dorme il mondo in silenzio, che tutte le luci ha spento. Nelle sere di giugno la luna rischiara la tenebra, e se hai fortuna puoi vedere sbocciare i fiori della notte. Uno dietro l'altro si aprono, di colpo asincronicamente, con un rumore breve e secco. Mettono i petali a ventaglio per gli insetti che soffrono d'insonnia, e diffondono un profumo che invade la notte estiva. Il bianco chiarore della luna piena illumina i quattro petali che come uno specchio discreto riflettono la luce, riflettono la luce. Rallegrare gli spiriti inquieti. lascia un fiore. Di notte, occasionale amico delle notti insonni, solitario canto notturno, rassicurante consigliere per il giorno a venire. Per il giorno a venire.